Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Radio Next, viaggio nel nuovo contesto digitale di Pepe Moder. Bentornati ad una nuova puntata di Radio Next. Oggi abbiamo con noi Pietro Carratù. È uno dei fondatori, il principale e più importante fondatore di Ubiquo, una startup che ormai startup non è più perché è una delle più importanti realtà tecnologiche nel mondo della VR e dell'AR in Italia, a quale diamo il benvenuto. Buongiorno Pietro. Buongiorno a tutti, grazie Pepe per l'invito. Allora Pietro, raccontaci un attimino una brevissima storia di quando è nata Ubiquo e che cos'è Ubiquo. È nata alla fine del 2013, a dicembre, è nata diciamo in una piccola città del sud, a Cava dei Tirreni, nasce come startup innovativa che si interessa a tutto quello che è il mondo delle applicazioni, dei device, dei dispositivi indossabili. In particolare ci focalizziamo sulla realizzazione di visori a realtà aumentata per l'industria. E attraverso un percorso di evoluzione che è durato vari anni, abbiamo fatto molta ricerca, fatto rilevanti investimenti su questo settore per poter avere la leadership di settore. Ci racconti però un attimino in specifico che tipo di ricerca avete fatto e su quali device? Ecco, voi non producete videogiochi né tantomeno device da attaccare alla PlayStation, tanto per capirci. No, assolutamente, noi realizziamo appunto l'elettronica e quindi il vero e proprio prodotto di visore a realtà aumentata, quindi sono sostanzialmente dell'elettronica complessa che si indossa come se fossero degli occhiali e che permettono di avere diciamo un computer davanti agli occhi con funzionalità di intelligenza artificiale che riesce a capire l'ambiente ed aiutare il lavoratore nella sua attività o di manutenzione o di operazioni di assemblaggio lungo la catena produttiva. Chiarissimo. Allora però ti devo fare assolutamente questa domanda, perché quando parliamo di visori o di occhiali tutti hanno in mente i Google Glass, che ahi noi sono stati un bellissimo oggetto, ma sono stati ritirati dal mercato perché sono stati considerati un po' un fallimento da parte di Google. Ecco, vogliamo spiegare la differenza tra un prodotto consumer come il Google Glass e invece un prodotto professionale, come è concepito e quali sono le differenze tra questi due prodotti? Sì, Google è andato un po' avanti con i tempi e ha proposto un prodotto per i consumatori che non aveva ancora la maturità tecnologica giusta. Noi invece, grazie anche al fatto che nel mio passato ho lavorato con grandi aziende che si occupavano di manutenzione di sistemi complessi come radar, eccetera, abbiamo capito che probabilmente era il settore enterprise della grande impresa prima e poi della media impresa che potesse essere interessata a risparmiare sui tempi di manutenzione e sui costi di manutenzione adottando queste tecnologie indossabili che nel 2014 erano ancora immature con il Google Glass, poi hanno fatto un salto tecnologico con Microsoft HoloLens. In quel momento, insomma, le cose sono cambiate. Durante il periodo della pandemia so che voi avete avuto una accelerazione da un punto di vista del business importante. Perché? Cos'è cambiato? Cosa sta cambiando sul mercato? Sta cambiando essenzialmente una cosa, la mobilità. La mobilità adesso è molto più ridotta, ci sono molte più regole e vincoli da rispettare. Nella prima fase noi abbiamo proposto il nostro prodotto per aiutare a risparmiare i costi di manutenzione tramite assistenza remota e uso del visore a realtà aumentata. Quindi il concetto era il risparmio. Con la riduzione e le limitazioni di mobilità il concetto è diventato: bisogna avere questi prodotti perché altrimenti la funzionalità non può essere di manutenzione e non può essere proprio erogata, e di conseguenza abbiamo avuto un picco di richieste per poter fare questo adeguamento veloce della tecnologia. Voi con quali aziende normalmente lavorate? Chi sono i vostri interlocutori e quali sono le relazioni che voi avete con queste aziende? Sono semplicemente dei clienti che comprano bulk 1, 10, 100, 1000 lens o c'è una coprogettazione, c'è un lavoro insieme? Come tutte le innovazioni radicali, queste partono dalle grandi imprese che hanno maggiori possibilità di investimento e di ricerca, quindi i nostri primi clienti sono stati le grandi imprese come Leonardo, la Ericsson, adesso la Thales in Francia, che hanno voluto approfondire le performance di questa nuova tecnologia, coinvolgendoci in progetti di ricerca e innovazione. Poi si stanno avvicinando adesso da qualche mese le medie imprese, quelli che hanno bisogno di maggiore produttività e soprattutto di poter erogare il servizio di manutenzione, quindi aziende come Rolls-Royce, una fra tutte, che ha bisogno di poter assistere i propri clienti nella manutenzione dei prodotti che veicola. Secondo... E quindi si è aperto uno scenario molto più ampio. Ok, voi siete una delle startup più promettenti e prova ne è il fatto che avete ricevuto numerosi finanziamenti. Che cosa vi distingue sul mercato? Beh, in realtà noi siamo l'unica azienda italiana in questo momento a realizzare visori a realtà aumentata, perché la complessità tecnologica è molto alta. Inoltre in Europa ci saranno al massimo due o tre aziende competitori, quindi sicuramente il fatto di poter gestire la personalizzazione, la realizzazione, design e personalizzazione eventuale del visore. Siamo gli unici che abbiamo adottato un modello, un'architettura hardware modulare per poter consentire un facile adattamento alle esigenze dell'impresa che hanno bisogno ad esempio di sensori per thermal scan, sensori molto particolari per l'uso in delle particolari catene produttive. E poi nel business model noi cerchiamo di vendere come product as a service, un noleggio che va di pari passo col canone della manutenzione che il nostro cliente chiede al suo cliente, e quindi molto più sostenibile dal punto di vista dell'investimento economico. Pietro, molto interessante questo punto, perché mi stai comunicando, cioè il messaggio che mi stai passando è che voi avete adattato il vostro modello di business al modello di business del vostro cliente nei confronti del suo cliente. Ma quanto è stato facile per il vostro cliente adottare tecnologie come la vostra? Cioè quanto le reti di manutentori, di installatori erano pronte a utilizzare questo tipo di tecnologie? Ovviamente non erano pronti, diciamo che primo stimolo in questo tipo di aziende avviene da parte del settore di ricerca e sviluppo e poi tipicamente è l'innovation manager che se ne occupa di poter cominciare a evangelizzare il settore interessato alle nuove tecnologie, con un meccanismo progressivo di far provare e poi adottare. Noi abbiamo anche clienti nell'ambito real estate negli Emirati che hanno delle figure specifiche di innovation manager che favoriscono questo processo all'interno dell'azienda. Ma secondo te sarà più facile per gli installatori quindi diventare esperti di un determinato prodotto e quindi più autonomi rispetto al manufacturer nella gestione del cliente? La sfida è proprio quella. In realtà una delle problematiche più vincolanti e pregnanti di questo tipo di tecnologia è l'usabilità. Progettare una facile usabilità per l'utente tipo target è la discriminante che fa il successo o meno di un prodotto. Certo. In questo settore. Noi un punto di forza su cui andiamo a spingere è una maggiore usabilità di questo tipo di device. Per questo stiamo anche brevettando i meccanismi di usabilità che inventiamo per poter facilitarne l'uso. Oltre alla manutenzione, quali sono gli altri ambiti di applicazione della realtà aumentata nel vostro mercato? Sicuramente ci sarà un'opportunità di crescita nell'ambito dell'healthcare in ambiti completamente diversi, nell'ambito museale e turistico. Abbiamo già segnali che questi settori sono in rapido fermento e vogliono adottare questo tipo di tecnologia. Sì. Molti progetti pilota sono stati sviluppati. A proposito di ciò, noi abbiamo ricevuto l'interesse da uno dei principali produttori mondiali di microprocessori, la Qualcomm, che sì, fa processori per tablet e per telefonini, che ci ha dedicato un case study sulla nostra azienda, focalizzando proprio l'attenzione sul fatto che adesso è necessario avere delle architetture hardware modulari proprio per adattarsi ai diversi settori in maniera molto rapida, e quello è proprio uno dei nostri principali elementi della nostra proposizione di valore. Ma allora, per concludere, Pietro, secondo te perché fino ad oggi il mondo della realtà virtuale e soprattutto della realtà aumentata, di cui si è parlato per anni, anni e anni, non è ancora decollato, e quindi è giunto il momento del decollo, o siamo ancora in una fase early stage di immaturità tecnologica che richiede ancora sperimentazione prima di essere adottata su una scala abbastanza larga da farlo diventare un business consistente? Ci vuole sicuramente una maggiore maturità tecnologica, ci stiamo arrivando, e in realtà ci sono alcune componenti che sono in corso di miglioramento, e sicuramente la maturità sarà raggiunta nel momento in cui usciranno i prodotti consumer dell'Apple, di Facebook, di cui si sente parlare in questi giorni. Sì. e non da poco tempo. Chiaramente la killer application che fa la differenza insieme con il prezzo finale, quindi la motivazione o uno use case particolarmente favorevole e particolarmente di interesse di tutti, che può essere anche la telemedicina. Ci sono tanti casi che possono interessare l'utente singolo, farà cambiare, come dire, il paradigma e anche il ritmo di crescita di queste tecnologie, ma è inevitabile. Il quando, siamo ancora incerti su tempo in cui succederà, ma sicuramente succederà. E allora ringraziamo Pietro Carratù di Ubiquo, che è stato ai microfoni di Radio Next, per raccontarci questa storia interessantissima e straordinaria sulla realtà aumentata. Grazie mille, Pietro. Grazie a tutti, grazie per l'invito. Arrivederci. E ringraziamo i nostri ascoltatori per essere stati con noi in questa puntata di Radio Next. Vi do appuntamento come sempre il lunedì per il podcast esteso della nostra trasmissione, oppure la settimana prossima, come tutte le domeniche, alle 13.45 in onda su Radio 24, va Radio Next. Un saluto da Pepe Moder. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.